Buonasera a tutti, questa qua è One Tree Boots One Two Radio Wombat. Buonasera ragazzi, oggi puntata particolare. Molto, molto particolare. E inizieremo a One Tree Boots One Two vi ospita, una nuova rubrica del nostro programma. Qualsiasi persona voglia partecipare, la porta è aperta. Oggi abbiamo con noi ospiti due nostri cari amici. Ma sì, due ragazzi della nuova scena fiorentina soprattutto. Esatto. Vai, presentatevi, dai. Ciao ragazzi, io sono Nick. Wait, wait. E siamo dei ragazzi, come hanno detto loro, e suoniamo in un gruppo punk qua di Sesto, di Sesto Fiorentino. Il Neto, no? Del Neto. È sempre bene sottolineare le cose importanti. È giusto. E facciamo parte di un collettivo, un nuovo collettivo che si è formato da poco. Si chiama Smash Sound Collective e ci occupiamo di organizzare concerti, underground sempre, della scena punk, oi, rap, metal, basta che sia underground. Interessante, interessante. Poi dopo andremo a approfondire questa cosa che ci sembra... Sì, so che avete scritto un comunicato davvero figo. Certo. Ah, e dopo, dopo andremo a approfondire. Innanzitutto ci vogliamo scusare che domenica scorsa non siamo potuti andare in puntata, però non era stata colpa nostra. Ci sono arrivati messaggi tramite minacce tramite messaggi la domenica scorsa. Nemmeno ai tempi dei Brigate Rosse. Okay. Scusate. A parte gli scherzi, infatti vogliamo rimediare questa puntata. E oltre i due ospiti speciali, abbiamo anche due belle chicche, due interviste favolose. Una delle Garden G, gruppo di Cuneo, che ha suonato il concerto al Camilo Sanfuegos con gli Scontro, Blue Brigade, Aban e Urban Vietcong. E poi, bellissima, bellissima intervista dei Bobber 80, che ieri hanno presentato il loro disco ECPA Contro il Vento. Sì, e che hanno suonato comunque ieri insieme ai Barbera Champagne e gli Urban Vietcong. Sempre loro, gli Urban Vietcong ormai. Difatti, gli Urban Vietcong hanno preso una piccola pausa perché stanno elaborando un nuovo disco. Stanno sempre a Firenze. Esatto. Diciamo che oggi sarà una puntata mezza doppia, in quanto faremo il resoconto sia della serata che si è tenuta la settimana scorsa al K100, sia della serata che si è tenuta ieri al CPA. Esatto. E io inizierei subito mettendo l'intervista alle Garden G. Facciamolo dai. E niente, vi ringraziamo ancora che ci sentite come ogni domenica. Soprattutto vorremmo ringraziare anche dei nostri grandissimi fan che veramente sono persone stupende, che ci mandano varie minacce per dire no ragazzi, fan è una parola grande, dai. Io invece delle Garden G direi di buttare direttamente un gruppo torinese che ha suonato dopo di loro. Ah, iniziamo così? Sì, a bomba, a bomba. Dai, con chi iniziamo allora? Iniziamo con i Blue Brigade. Perfetto, dai, mettiamo prima la traccia e poi diciamo qualcosa. Dai, a posto. Vai. A tra poco. Blue Brigade, Perduto Amore. One Tree Boots, One Two. Radio Wombat. Riesce a dominare nella città in cui più speranza non c'è, sotto i palazzi tra le prove delle scale, stringe gli affibi di coscienza e follia, dentro quei gesti forse ricorderai di noi sballati e persi in mezzo alla via, e di quel tempo che non torna indietro mai. Il tuo pensiero torna al momento in cui c'era una scena e non soltanto le rovine. I nostri sguardi in mezzo ai vicoli bui e i nostri cuori oltre ogni limite e confine. Non queste mura di leggende realtà, oltre le quali nulla resta di noi. Cosa racconti al tuo cuore quando il mio nome pronunciare non puoi? Le quante grandi al cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi. Duro sto cammino che ti riporterà tra la nebbia finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi. Parli poco con voi e poi lei, compagna, dove sei? Questo silenzio vuoto e senza un perché è un labirinto da cui non riesco a fuggire, come la rabbia che ci ha fatto schire, che spinge i cuori costringendoci ad ardire, come quel disco che ti trasporta via, che ha sempre il suono della nostra città, che tiene sotto scacco l'anima mia, che salvarla mai potrà. E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi. Duro è sto cammino che ti riporterà tra le mie finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi. Parli poco con tuoi e poi lei, compagna, dove sei? Questi erano i Bull Brigade. Come abbiamo detto due settimane fa, sabato scorso al K100 si è tenuta veramente un'invasione torinese. Sì, cioè hanno organizzato un bus completamente pieno di torinesi e non, però si sono fatti notare durante la serata. Sì, via. Sì. Allora, niente, i Bull Brigade hanno inciso nel 2008 un album che si chiama Strade Smarrite. E nel 2016 Vita e Libertà, ci hanno messo 8 anni per fare un altro album. E questa traccia è presa dall'ultimo album. E niente, bei testi, belle chitarre graffianti. E io rispetto al Strade Smarrite trovo proprio una cura maniacale dei suoni all'interno del secondo album. Bei suoni cristallini, che non è scontato per quanto riguarda la scena punk e UI. Sì, ma soprattutto si sente, come hai detto te, il cambio del suono dal primo album al secondo, anche se io a livello personale preferisco molto di più il primo album. Non so, forse perché io sono grezzo. Forse che non capisci un cazzo. Anche. E niente, comunque il primo album già bellissimo album e è stata veramente una sfida fare un album più bello del primo. E secondo me i Bull Brigade col secondo album ci sono riusciti. Esatto. Appieno. Chiediamo una cosa, chiediamo ai nostri ospiti che cosa ne pensano. Aspetta, devo dire un'altra curiosità. Oh, vai su, parla. Super Quark. Niente, abbiamo parlato di Super Quark del concerto del K100 e abbiamo detto che ha suonato anche un rapper, Abban, un rapper antirazzista leccese, che proprio con i Bull Brigade hanno... Scusate, antirazzista, perché il mio collega ha avuto... Che ho detto? Antifascista? No, hai detto antirazzista. Ah, antirazzista, quindi... antirazzista. che, hanno che ha scritto insieme ai Bull Brigade un pezzo che si chiama PSM, che è presente in Vita e Libertà. Esatto, che poi ci sta anche i videoclip su YouTube, naturalmente. E diteci voi, voi che ve ne pensate di questo gruppo? The Bull Brigade. Sì, The Bull Brigade. Sinceramente a me piacciono molto, se devo dire il mio parere personale. Poi sono d'accordo che nel secondo album hanno davvero hanno avuto una cura maniacale per il suono, eccetera. Sono molto più elaborati, diciamo, secondo me. Però vabbè, le tematiche sono sempre le stesse ed è giusto così. Ottimo. Il secondo pischello cosa ne pensa? Prego, prego, si accomodi. Cosa ne penso? Penso che io i Bull Brigade no, li ho sentiti la prima volta lo scorso sabato al K100 insieme a tutti gli altri gruppi menzionati e, a dire la verità, gli unici pezzi che conoscevo erano Sulla Collina e Motor City. Quindi non mi sono più che altro mai interessato perché, non ti hanno attratto più di tanto. Non mi hanno attratto più di tanto, poi sono opinioni personali. E piovono denunce oggi. No, vabbè. Oggi pioveranno denunce. Scusate, è piccolo, non capisce un cacchio anche lui. E niente, andiamo con l'intervista del Garden G. L'intervista con le Garden G, sì. Che poi, se non erro, sono anche vostre carissime amiche, se non erro. Carissimissime, che approfitto per salutare tutte quante. Ehi, intervistato numero uno, che cosa c'hai sul collo? Notte brava, eh. A parte gli scherzi, andiamo con questa intervista, se no ci stiamo fino a notte. Vai. Questa qua è la prossima, è l'intervista di Garden G, 1-3, Boots, 1-2, Radio Wombat. Vi siete conosciute? Allora, noi ci siamo conosciute girando i concerti e inizialmente ci conoscevamo prima io, Giorgia e ho conosciuto Maz. E poi c'era una piccola realtà a Caramagna, provincia di Cuneo, che organizzava concerti e tutto, e quindi lei, io vedendo tanto lei, abbiamo iniziato a parlarci, a frequentarci, abbiamo detto: minchia, però perché non suoniamo anche noi? Ed eravamo io, lei e un'altra ragazza, avevamo bisogno di una chitarrista e vedevamo sovente Azza. E poi, ridendo così per gioco, abbiamo detto: ma tu non suoneresti la chitarra? E ci ha detto di sì, e quindi abbiamo iniziato alla buona, proprio do it yourself. Sì, proprio una roba quasi goliardica, cioè ci siamo incontrate sotto un palco e abbiamo detto: va bene, facciamolo, no? Partecipiamo anche noi. Non ci noi. Credevamo nemmeno. No, è una roba un po' così. E quando vi siete formate veramente come band? Ma allora, noi abbiamo iniziato nel 2011, sì. Inizio 2011, poi ci sono state sì. No, appunto, eravamo all'inizio, eravamo io, Maz e un'altra ragazza e Azza, e poi questa qua un paio di giorni prima di un live ci disse che non poteva partecipare. Io era un live a cui ci tenevo perché era una ragazza di Milano che era da mesi che organizzavamo questa cosa e quindi questa qua ci dice che non poteva venire. Allora abbiamo detto: boh, raga, proviamo noi tre, vediamo cosa ne esce. E allora abbiamo provato con me alla voce e alla fine è rimasto così. Quindi alla fine dal metà 2011, fine 2011, inizio 2012, che siamo rimaste noi tre. E poi abbiamo detto: boh, cerchiamo un'altra chitarrista, cerchiamo una cantante, però c'è un'atmosfera talmente figa che unisce tutte e tre, che un altro elemento in più sarebbe solo di disturbo, quindi lasciamo così. Avete progetti per il futuro? Ma a noi non ci dispiace suonare in questi posti così alla buona, tra amici, tra compagni, e a me personalmente, ma penso neanche a loro, frega di suonare in un posto rinomato, tutto un po'. Il progetto per il futuro è rimanere sempre comunque in questo ambiente, questa formazione, in questi ambienti, suoniamo per delle cause, per benefit, infatti noi penso che, cioè, non per dire, però siamo una delle poche band che non chiediamo nemmeno un rimborso, non ce ne frega proprio nulla, nonostante che comunque facciamo tutti i lavori dove ci sbattiamo, dove comunque la vita non è facile, non ci mantiene nessuno, però, cioè, se suoniamo per dei benefit non ci facciamo di sicuro dare un rimborso. Abbiamo suonato per un benefit a massa, quindi non era poco da noi e non abbiamo chiesto nemmeno un euro, ce li volevano dare, abbiamo rifiutato perché era giusto così per noi. E raccontateci un po' della nuova scena torinese. Vabbè, noi siamo un po' strane perché comunque siamo tutte della provincia. Quello che stiamo vivendo nell'ultimo periodo, cioè comunque c'è abbastanza movimento, perché comunque ci sono varie realtà che organizzano vari eventi, sia benefit che non, cioè Welcome to Vanchiglia, la Scatasuna, il CSA, il Paso, il Gabrio, che comunque sono... Sì, hanno sempre cercato di tirar su qualcosa. Appunto noi siamo più che provincia di Torino siamo sotto provincia, cioè io sono provincia di Cuneo e c'era una bella roba che avevano organizzato tutto, però come funziona in tanti posti purtroppo quando c'è un abuso di denaro la cosa va un po' a scemare e quindi si disfano le situazioni. Però faccio un po' di pubblicità a proposito. L'8 dicembre abbiamo organizzato un concertone proprio esagerato in Vanchiglia con tutti i gruppi di Torino, ci siamo noi, Bull Brigade, Scontro, Madbeat, Munkopus, Pretesto, quindi sì, comunque sia, cioè, ci siamo, ci siamo. E che ne pensate della parola attitudine e in quale modo la cercate di portare avanti? Bella domanda. A me personalmente l'attitudine, secondo me, arrivati ad una certa età è una cosa che va un po'... cioè non è più quella cosa da ragazzini che dici minchia sono punk, sono ribelle, no. Arriva non è una roba da far vedere agli altri. No, per carità, ce l'hai nell'indole, perché però arrivi ad una certa età, in una società dove purtroppo ti chiede di essere in un determinato modo, con delle determinate situazioni, però uno fa come può, cioè nel senso di sicuro non siamo figlie di papà, abbiamo sempre cercato di tirar su quello che abbiamo con le nostre forze, senza chiedere niente a nessuno. Io personalmente non mi reputo ridicola perché quello che ho me lo sono creato e conoscendo loro che sono mie amiche, stesso sistema. E quindi, boh, secondo me l'attitudine in sé è sai quello che fai. Cioè, non sei di sicuro un banchiere se frequenti questi posti. Se volete lasciate un messaggio per, diciamo, la nuova generazione, gruppi nuovi che vogliono, diciamo, fare il punk, però con un discorso di attitudine. Di non lasciarsi infinocchiare da gente, in realtà, che magari ti a livello di band, ti promettono, tu mi piaci, sei figo, vieni a fare un concorso, ti promettiamo magari un contratto discografico, però poi ti fanno suonare quello che vogliono loro. Ti impongono di dire determinate cose, magari tu neanche ci credi. Cioè se suoni in un gruppo e comunque fai roba tua, è perché fondamentalmente hai qualcosa da dire. E poi se piaci bene, se non piaci, è sicuramente una, alla fine la porta è quella. Diciamo sti cazzi alla fine. Esatto. Sti cazzi. Perché a noi non ce ne frega fatto proprio un cazzo. Va bene, e vi ringrazio. E grazie a te. Vi ringrazio soprattutto di, diciamo, di aver perso questi 10 minuti della vostra vita. Fai capire. Almeno non beviamo, siamo a posto. Sto bevendo. Che cos'è quello? Integratore. Ah, ok, allora. Questo è punk. Esatto. Messaggio per il futuro. Bevete integratori, raga. Dopo la birra bevete un integratore che domani andrà tutto bene. Bene, questa qua era l'intervista molto molto interessante. Sì, ringraziamo ancora le Garden C. Grandissime, cuoricini. Penso che comunque li avremo di nuovo, cioè faremo un'altra intervista alle Garden G, perché intervista interessante, ma abbiamo sbagliato a non toccare un punto, a mio avviso, che è quello della figura femminile all'interno della scena. Penso che comunque nel futuro faremo una puntata proprio sul gruppi donne all'interno della scena, e quindi anche l'intervista e come è vista la donna all'interno della scena. Penso sia uno spunto veramente interessante per una prossima trasmissione. Sì, sì. Niente, e due parole sulle Garden G. Mettiamo subito un pezzo. No, parliamo prima e poi mettiamo un pezzo. Va bene. E il pezzo che mettiamo è Infame, giusto? Esatto, sempre Garden G. Però ragazzi, raccontateci un po' di queste ragazze, perché se non erro avete suonato pure insieme, no? Fate bravi. Sì, abbiamo suonato un paio di volte insieme, abbiamo suonato. Ci siamo conosciuti intanto dove Fofo e lui che sta a tutti i concerti. La prima volta alla Casa Rossa occupata a Marina, esatto, di Massa. E la seconda volta al Nevroz a Pisa. Sì, la prima volta appunto ci siamo conosciuti lì e abbiamo poi risuonato al Nevroz e anche basta, mi pare basta, giusto? Solo sì. Due volte. Sì, sì, due volte. Sì, esatto. Che dire? sono le Garden, spaccano a prescindere. Poi hanno fatto un grandissimo salto da aprile a adesso, infatti mi sono già complimentato abbastanza con loro. E niente, speriamo in futuro magari con il nostro gruppo di fare uno split e di suonarci ancora dai e video. Di suonarci ancora insieme al vivo, certo. Poi prima o poi sicuramente col nostro collettivo riusciremo ad organizzare qualcosa di interessante. Certo. Bene. Però vogliamo subito dire una cosa ben precisa, che qua in studio c'è un buio cane, però il nostro Nicco c'ha gli occhiali da sole per fare il figo. La prima cosa che ha detto oggi è stata: ah, ma allora oggi me la tiro, oggi... Ma abbiamo in mano un PI... Sì, no, sì, no, sì, sì. Che bello, tutti i miei nipotini. E niente, NN oggi non starà per no name, ma nonno. Esatto, quindi esatto. Sono il nonno. Esatto. E niente, ok, Garden G... Io vorrei proprio toccare un punto dell'intervista di Garden Gin. Della parola a Gin, che? Scusate. Gramenco, basta, ma basta bere da ieri. Della parola attitudine, perché loro, anche se suonano da non tanto alla fine, credo dal 2015, sì. Però da come hanno detto nell'intervista fanno capire da quando sono montati sul palco, proprio c'avevo in mente la parola attitudine e cercano di mantenere questa parola nel futuro. E io considero per me di già un gran gruppo, anche se un gruppo può fare anche cagare strumentalmente e Garden G non sono così, però se ha la parola attitudine, per me sinceramente è molto meglio di un gruppo che ha 3.000 dischi, 3.000 album, che è salito pure sui palchi più grossi di tutta Europa, eccetera, la scena punk e così via, però di attitudine non c'ha veramente niente. Sì, infatti. Mettiamo subito la traccia allora, visto che abbiamo parlato abbastanza, devo ascoltare il messaggio vocale che mi ha appena mandato la mia ex coinquilina dell'Inghilterra, che penso sia abbastanza piccante e sono abbastanza curioso. Sono cazzi tua. Queste qua sono i Garden G, Infame. One, three, boots, one, one two. Radio Wombat. Mi fai discuto, tu hai potere nella città. Tiri fuori manganello. Bella, questa era Infame delle Garden G, pezzo che è uscito nella compilation Hardcore Non Si Comanda. Esatto. Volume 5, dove oltre alle Garden G ci sono i No Prove, i Klaxon, i Barbera Champagne, i Placcaggio, gli Zeman e i Root Pride. Gruppo che a me piace da paura. Esatto, che poi è un gruppo spagnolo, sì, alla fine. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E cioè, per identificare questo gruppo basta andare sulla loro pagina Facebook e leggere la descrizione. Cito: ce ne sbattiamo delle critiche distruttive di chi crede di fare di più di noi, soprattutto se si tratta di maschi. Semplici misogeni. Abbiamo deciso di salire su un palco per gridare quello che pensiamo e quello che noi vogliamo. Quelle come noi vivono ogni giorno e lo facciamo prima di tutto sorridendo. Non siamo femministe, ma odiamo il maschilismo. Quindi è attitudine allo stato puro. Sì, sì. E altra curiosità, importante a mio avviso, il 4 novembre hanno suonato a Torino insieme ai Nofu per un benefit per gli arrestati del fatto di Firenze del 3 agosto 2017. Fa capire ogni cosa in questo gruppo, fa veramente capire ogni cosa. Che poi vorrei citare le Garden G, durante l'intervista hanno proprio detto che sono andati a suonare a Massa, non hanno voluto nemmeno il rimborso, visto che era un concetto benefit, quei soldi dovevano stare per i benefit. È una cosa che stimo veramente tantissimo. E io andrei... Rimarrei su Torino con gli Scontro? Con gli Scontro, esatto, che hanno suonato anche loro a Camilo Sanfuegos. E a mio avviso è uno dei gruppi che oltre a livello musicale, ma anche a livello attitudinale, ne sanno anche loro. Sì, instancabili nei live e anche come... impegno politico. Esatto, che di fatti lì a Camilo Sanfuegos avevano fatto una maglietta proprio di Scontro, però che il cavato andava totalmente benefit. Purtroppo non ricordo per cosa di preciso. Non però. Neanche io. Comunque nascono nel 2001, all'inizio si chiamavano Barrio Obrero. Ah, non sapevo. Super NN. E hanno due album, Kings of Fools del 2007 e America Assassina del 2003. Poi hanno comunque un EP fatto nel 2001 che si chiama L'Inizio, veramente molto bello, dove c'è la canzone che vi faremo ascoltare e che è presente anche in America Assassina, che è La Mia Storia. Pezzo stupendo, veramente stupendo, che ogni volta che lo sento, quando ho scoperto gli Scontro, veramente fanno venire in memoria dei bei concerti che mi sono fatto insieme ai miei amici sotto il palco. Sì, il testo a mio avviso è proprio un riassunto di che cosa significa essere skinhead antifascista. O anche punk, semplicemente. Ma poi parlo per me. Cazzi tua. E voi volete dire qualcosa degli Scontro, ragazzi? Vi sono garbati durante il live? Erate troppo ubriachi quando hanno suonato? Esatto. Ah, ok. Infatti, io non voglio dire niente perché se vuole lo dice lui. Io non li ho sentiti perché ero fuori, ero appunto... Di testa! Sì, ero un po' fuori di testa, vabbè. Lui, lo sa lui dov'era, quindi diciamo non abbiamo avuto l'opportunità, però... Omertà oggi. Però, all'inizio qualche pezzo, due o tre pezzi, l'ho sentiti, sì, ricordo di averli sentiti qualche pezzo. Sì, ricordo. Gioventù bruciata. Ricordo di sì. Gioventù bruciata, va bene, mettiamo La Mia Storia, dai. La Mia Storia è Scontro. One, three, boots, one, two. Radio Wombat. Yeah. questi erano appunto gli scontri. Niente, adesso entriamo nel, diciamo, nel, nell'unione di, nella congiunzione tra le due serate. Cioè, esatto, gli Urban Vietcong. Esatto. E abbiamo già parlato nel, degli Urban Vietcong, mi sembra la prima puntata. Sì, o la seconda. Non è, e abbiamo presentato già l'album A Colpi di Macete, che è uscito nel 2016. Sì, sì. Bell'album, testo, no, testi intelligenti, suoni violenti. E non, e non. E non. E registrato anche quest'album, a mio avviso, molto bene. Ma molto, molto bene. Vengono da Livorno e niente, li abbiamo visti due volte in due settimane. Ha visto che c'è il derby Pisa merda. Va bene. E... ok, penso che comunque non abbiano bisogno più di presentazioni se ci seguite settimanalmente. Se non l'avete fatto, comunque vi... vi consigliamo... Grazie della regia. Vi consigliamo di andarvi a risentire le puntate precedenti presenti nella sezione streaming, podcast. Del One Tree Boots One Shoe. Niente, oggi un po' così. Mettiamo tra le luci della città. Sì, allora, però vorrei tanto salutare gli Urban Vietcong. Sì. Carissime persone, veramente, soprattutto Infantelli, che ieri si è fatto notare naturalmente col suo alto livello alcolico. Poi Giovanni, tutti gli altri, Bebe, persone veramente stupende, veramente. Poi Giovanni è l'unica persona con il rasta a cui io voglio bene. Bene, mettiamo Yuba Vietcong tra le luci della città. One Tree Boots, Boots One Shoe. Radio Wombat. We'll be right back. Bene, questi qua erano Yurba Vietcong. Stanno succedendo troppe cose intorno a me. Parla un attimo. Scusate. Bene, erano Yurba Vietcong, tra le luci della città. Pezzo a mio avviso veramente bello, soprattutto per la parte melodica che hanno messo, per appunto, per un testo così meraviglioso, a parer mio. E quindi io andrei subito a buttare i Bobo L'80. Butta la finestra. Sì, io metterei subito l'intervista ai Bobo L'80. Ok, si è calmato tutto intorno a me adesso in questa frangente. Sì, mettiamo... Intervista fatta ieri sera, oh, infatti non morire. Sentirete un po' di suoni di fondo, tipo una batteria che inizia a suonare. Un cesso. Uno scarico di un cesso. Comunque il punk è anche questo. Giusto. Intervista importante, e come abbiamo detto, i Bomber 80 ci parleranno del loro nuovo lavoro che hanno presentato ieri. Esatto. Che si chiama Cambia il vento. Contro il tempo. Contro il tempo. Sì. Contro il tempo, cambia il vento era l'IP del 2010. No, smettila con la droga. Vai, sono senza occhiali oggi, sono proprio vecchio. Bene, andiamo subito con l'intervista, poi dopo metteremo un pezzo del nuovo album. Questo qua è sempre One Tree Boots, One Two, Radio Wombat. Come vi siete conosciuti? Conoscere ci conosciamo in realtà da molto prima che ascoltassimo questa musica, cioè per dire io c'è mio fratello che suona nel gruppo, poi c'è insomma amicizie personali con cui siamo venuti fuori diciamo dai circolini, perché in realtà la realtà è questa, quindi ci conosciamo da prima e quindi poi è stata una cosa naturale andare a girare concerti eccetera e poi da lì abbiamo conosciuto Paolo che poi è diventato il nostro glorioso batterista, e ai tempi c'era Liga, insomma, che è stato il nostro primo chitarrista, comunque sempre in un contesto di amicizia personale, e poi quindi è diventato un discorso di... c'è stata questa necessità di fare musica, di voglia di fare musica, comunque suonavamo tutti, più o meno, e tutto, facciamo un gruppo. E quindi è nata un po' così la cosa. Poi chiaramente ci sono stati vari cambi di formazione, quando Liga per motivi di lavoro non ha potuto più essere con noi, e fino ad arrivare insomma al Giao, il nostro sì, grande compare, ha fatto un po', diciamo, al Benco dei Drunken Nights, che salutiamo, e poi con Damiano, dal momento del suo trasferimento in Toscana, insomma è stata una cosa che anche quella, diciamo, è venuta naturale, ci conoscevamo prima, io personalmente ci ho lavorato insieme, quindi è stata una cosa proprio così, doveva andare così, insomma, siamo diventati un gruppo a tutti gli effetti, insomma. Il nome del vostro disco, Contro il Tempo, ha un significato personale? No, cioè, non personale, cioè, non saprei cosa vuol dire significato personale. Ha un significato nel senso che ci siamo in sala prove, abbiamo parlato un po' di come cazzo volevano chiamare questo disco, e niente, una cosa su cui ci siamo trovati d'accordo è sicuramente un po' appunto il discorso del tempo, no? Quello di come viene concepito il tempo nella nostra vita, nella società di oggi, che è diciamo un po' quello che muove la tua vita nel bene e nel male, è quello che quando passa riesce a cementificare amicizie, come riesce a invece forse a volte ad affievolire certe passioni, e quindi poi è quello che scandisce la tua vita nel lavoro, a scuola, all'università, e insomma nella vita di tutti i giorni, quindi è un po' una presa di posizione contro quello che è il concetto universale del tempo, che è quello che gestisce la tua vita e che ti condanna a nascere, crescere, lavorare e poi morire in un ospedale probabilmente se ti va bene, e, insomma diciamo un po' una critica a questo, ecco, mettiamola così, un po' semplice. Come avete lavorato per la scrittura dei brani del nuovo disco? Secondo me la cosa figa di questo album è che praticamente abbiamo scritto un pezzo, ogni membro del gruppo ha scritto un pezzo, quindi Damiano ha scritto insomma un paio di canzoni, Paolo ha scritto la sua, io ho scritto la mia, Marco ha scritto un'altra due o tre canzoni, e quindi la cosa ganza è quella, insomma, cioè non è che è stata una cosa forzata, è stata ci siamo messi in sala prove sotto per più di un anno, e all'inizio avevamo dei pezzi, insomma, erano rimasti nel cassetto, e poi li abbiamo ritirati fuori, e poi invece quando abbiamo deciso, va bene ragazzi, si fa l'album nuovo, ci siamo tutti, e praticamente alle prove portavamo un pezzo nuovo, e quindi è stata una cosa così, insomma, ognuno ha portato il suo, e alla fine si sono fatte queste 9 canzoni. Poi nell'album sentirete, c'è una registrazione di un pezzo del vecchio album, insomma, quindi così. Quali sono le vostre influenze musicali? Le origini, diciamo, sono un po' le stesse, credo, di tutti i gruppi che fanno questo genere, quindi noi tutti abbiamo iniziato le prime prove, facevamo chiaramente Nabat, Corona e Fame, Basta, Attaccabrighe, perché comunque... Gianluca, scusa ti interrompo, io personalmente a Nino D'Angelo sempre... Anche io! Vabbè, abbiamo anche a volte azzardato qualche cover in inglese. Sì, diciamo, tutti abbiamo provato. Anche in spagnolo. Sì. Vabbè, poi alla fine, diciamo, abbiamo... Comunque c'è sempre stata, ecco, una necessità di provare a fare qualcosa di nuovo, insomma, non i soliti, diciamo, 4 accordi canonici, classici dell'Oi, che comunque continuo ad adorare incondizionatamente. Però, insomma, il discorso era facciamo qualche cosa di diverso. Comunque sì, più o meno le tendenze sono le solite, diciamo. Parlateci delle varie tracce che stanno nel nuovo disco. Lo so, il discorso è abbastanza ampio, però alla fine tutte le persone vorrebbero sapere, diciamo, che animo, le cose personali che avete messo nei testi del nuovo disco. Un discorso un po' generale. Senti, diciamo. Noterete che nell'album ci sono praticamente 3 canzoni che parlano di amici, purtroppo, in questi anni che abbiamo perso, e quindi anche lì c'è stata una necessità chiaramente di mettere in musica questo sentimento, insomma, questa mancanza. Quindi Love in Memory per Bollo, Picchiaforte. Che ha scritto Paolo per il Babba, sì, di Reggio Emilia. E poi chiaramente c'è stata Mentre guardi il cielo, appunto, che era, insomma, già nell'album vecchio, che a suo tempo, insomma, avevamo scritto per Daniele, insomma, per altri amici che erano scomparsi in quel periodo. Sicuramente sono tutti pezzi, ecco, ricercati, nel senso, sono pezzi di quotidianità, ecco. Quindi c'è il pezzo sulla testa, che parla di questa... questa mancanza di vedere, ecco, concretizzarsi dei nostri della nostra avversione verso i nostri padroni, perché fondamentalmente facciamo tutti i lavori di merda, quindi sulla testa è un pezzo che parla di lavoro, di non arrivare a fine mese. Poi ci sono pezzi per la nostra città, delle sue sfaccettature, che è cruda e vera, quindi c'è, cioè, della città che chiaramente vediamo cambiare sempre di più, il centro che è diventato da molti anni ormai una città vetrina, la periferia che continua a espandersi sempre di più, che non cambia un cazzo, perché comunque veniamo sempre tutti da vari quartieri di Firenze, ecco, nessuno che è cresciuto in Via dei Benci, ecco, per capirsi. Quindi così, insomma, quotidianità, sicuramente. E che ne pensate della nuova scena in Italia? Ma chiaramente la musica è cambiata. Lui, per quanto mi riguarda, è cambiato. Sicuramente noi nasciamo come gruppo, però fondamentalmente io non ci definiamo un gruppo OI. Cioè, è chiaro, noi siamo un gruppo punk, fondamentalmente, cioè, ogni pezzo è più rock and roll. Diciamo, così. Non ci piace metterci delle etichette, dei limiti. No? E comunque questa cosa la stiamo rivedendo anche negli altri gruppi che via via in questi anni si sono formati. Rispetto ad anni fa, secondo me, si vede più gente che sa suonare, ci sono più musicisti, Il livello si è alzato un po' il livello. E prima si vedeva gruppi di ragazzi che tiravano su una band senza saper suonare e si andava avanti. Adesso si vede più gente con passione che sa suonicchiare molto bene, il livello si è alzato, non esiste più, diciamo, in Italia, secondo me, proprio l'oi vero e proprio di una volta, ma ci sono ormai tantissime influenze, dallo street punk all'hardcore, quindi è figo. È diventato un noi cantautorale, è diventato. Sì, sì. I Guccini dell'Oi. L'unica pecca rispetto ad anni fa, manca un po' il cambio generazionale. C'è meno gente a giro, si vedono meno fischelle, almeno per quanto riguarda Firenze. Siamo proprio a secco. Sta cazzo di dancehall. Nelle altre città ho visto movimento, ce n'è, soprattutto nelle città più grandi. Firenze è quella che è, nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo, quindi se vediamo dei pischelli crescere su bene siamo stracontenti. Volete lasciare un messaggio per la nuova generazione? Messaggio per la nuova generazione, suonare, divertirsi, pigliare in mano uno strumento e chiavare, spaccarsi il fegato, no, stiamo scherzando. E sempre quella non è detta male. E niente, andare sempre avanti con tutti i problemi e andare avanti con rispetto a concretizzare questa rabbia, questa voglia di spaccare tutto, sicuramente metterla in musica è già un passettino, dai, certo, ragazzi, c'è certo bisogno. Vabbè, hai una chitarra in mano, 2-3 accordi, si inizia così e poi vedrai che la passione viene da sé. Sempre avanti. E volete lasciare qualche ringraziamento a delle persone che vi stanno a cuore? Ciao mamma. Sono a cuore Dadda, che è il nostro carissimo amico, se non fratello, che ci ha sempre supportato, stato dietro, tanto interesse da parte sua verso la band e tutti noi, quindi un grande ringraziamento a lui, tutti i ragazzi del cantiere, il CPA, insomma tutte le varie realtà che da quando abbiamo veramente iniziato a salire sui palchi ci hanno sempre supportato a venirci a vedere concerti, organizzare le serate da sempre, e adesso insomma siamo ripartiti e ci stanno dando una mano tutti. Sicuramente alla realtà di Firenze un ringraziamento speciale va. Poi voglio ringraziare Robertone che ha deciso, ha scelto insomma di seguire questo progetto, ci ha dato veramente un aiuto fondamentale. E niente ragazzi, più o meno. E poi vabbè, io voglio ringraziare anche i ragazzi di Livorno, gli Urban Viet Cong, che comunque siamo amici fraterni da sempre, siamo sempre abbiamo sempre fatto le queste cose, ecco, di cui abbiamo parlato, le abbiamo fatte insieme. E niente, ma un po' a tutti, dai, ragazzi di Torino, anche di Roma, insomma grazie a tutti. Guardate, vi ringrazio per questa breve intervista, vi ringrazio di aver perso questa decina di minuti, barra ventina di minuti, siamo questi due sfigati. Parla per te. E speriamo che il vostro progetto vada avanti ancora per anni e anni. A voglia, anche perché sennò ci arrestano tutti. Vi salutiamo e vi diciamo solamente andatevene a fanculo, sto scherzando. Oi! Stupenda. Simpaticissima questa intervista, veramente bella, molto molto bella, che fa capire un gruppo che suona da 10 anni e c'ha ancora tanta voglia di sbattersi per continuare, diciamo, la loro attitudine, potremmo dire. L'ultimo album non ho avuto ancora il piacere di ascoltarlo, lo farò il più breve tempo possibile, ma ho potuto apprezzare le loro canzoni live e sinceramente perché ti ricordi qualcuna? Sì, ieri sera stranamente rispetto a tutti gli altri concerti sono arrivato a ricordarmi fino a quando ci sono state la selecta di Moga. Quindi vuol dire che sì, mi ricordo, ero abbastanza lucido. Buono. No, io anche mio se avviso... comunque girano voci che io stavo spaccato a merda. Però non è assolutamente... Mi ricordo tutto, sì. Mi ricordo anche il tentativo con il mio nipotino qui presente di fare uno stage dive in molto insieme che non c'è riuscito. Non ci hanno preso, no. Per fortuna non mi sono buttato. Sì. Però io dico che possiedo per appunto sia i CD che vinile. È una cosa che veramente... Ogni volta che l'ascolto in questa settimana, ti ha rovinato, secondo me, da quante volte ho ascoltato. Non te la tirare, possiedo il CD e il vinile, perché, diciamolo, il CD esce col vinile, quindi tu hai comprato una cosa sola e te l'hanno dato due. A tutti. Io c'ho il CD e il vinile. Dai, non andiamo a false informazioni. Tutte cazzate, a mio avviso... Sono delle canzoni che mettono proprio i brividi sulla pelle, con dei testi spaventosi, ma anche a livello musicale, strumentale. Scusate, il mio collega ha appena preso una croce così da niente. Piovono croci oggi. No, scusate per queste cazzate, però... Siamo Radio Maria. No, ve lo consiglio assolutamente di comprarvelo. E degustarvelo, o se no di stare dietro la loro pagina di Facebook e guardare dove andranno a suonare, perché meritano davvero tanto. Sì. Meritano. Mettiamo una traccia dall'ultimo CD? Esatto, però prima volevo chiedere il parere dei nostri due ospiti del Bobber 80. Abbiamo uno che non parla e uno che parla troppo. Vai, nipotino preferito. Io sono il nipotino preferito. No, vabbè, fortissimi, grandissimi ragazzi, e vi ho sentiti ieri sera live e avete spaccato veramente tutto, complimenti. E vabbè, l'unica nota negativa della serata appunto era il tentativo di stage diving con il mio nonnino. Fallito. Appunto, e è fallito, però vabbè, dai, top. Tanto cuore, tanto cuore. Tanto cuore. Dai, allora mettiamo subito l'altro pezzo. Te non vorresti dire niente, Nico? Io vorrei dire qualcosa sull'intervista che ho potuto ascoltare molto meglio adesso, in questo momento. E mi ha colpito il punto quando appunto chiedono come, da cosa si sono ispirati, da che gruppi sono partiti. E come noi, loro appunto sono partiti da i gruppi fondamentali, no? E tre accordi e via, così si parte. E appunto è anche un po' la nostra storia, no? Esatto, precisamente. Bene. Che bei nipotini. Grandissimi. Bene, il prossimo pezzo è dei Bobber 80, mollo tutto. Questo qua è One Tree Boots, One Two, Radio Wombat. Scusate, ho un problema tecnico, scusate. Olè! E fra proprio 2 secondi parte il pezzo. No, c'è un piccolo problema tecnico, scusate a tutti, davvero. Figura di merda. Sì, esatto. Ora riproviamo. Belline le parole di stare. Esatto. L'abbiamo stile suoneria per il cellulare. Abbiamo 10 secondi di pezzo, ma come si fa? Allora, niente, vi devo raccontare una barzelletta. Facciamo così. Colgo la palla al balzo e lascio la parola al mio nipotino meno preferito. Grazie. Per farci parlare per due parole su questo collettivo. Esatto. Per l'occasione mi sono anche... l'ho detto io. Sì, esatto. Per l'occasione mi sono anche levato gli occhiali perché appunto è buio e non vedo proprio un cazzo. Infatti penso dovremmo accendere anche una luce. No, non importa, non importa. Non importa. Sì, sì, appunto. Niente, come ho già detto prima, facciamo io insieme a altri 5 ragazzi, facciamo parte di un nuovo collettivo di Firenze, lo Smash Sound Collective. E volevo, diciamo, leggervi la nostra descrizione, ciò che noi pensiamo e quello che siamo. Lo Smash Sound Collective appunto nasce dalla nostra esigenza di ragazzi di supportare la scena underground organizzando concerti per lo più hardcore, punk e oi, ma anche rap e metal. In astratto possiamo essere visti come dei punk o degli skinhead, ma concretamente siamo la nostra personalissima risposta al marciume presente nella società, rispondendo a questo con l'aggregazione. Questa aggregazione è stata naturale, conoscendoci ai concerti e nei centri sociali. Noi oggi prendiamo parola e diventiamo un insieme di individualità che ha come scopo quello di diffondere e difendere le nostre idee, le nostre radici e i nostri ideali. La creazione del collettivo è una forte presa di posizione, perché noi sappiamo bene che da che parte stare e disprezziamo gli ambigui, che con la scusa della non politica scelgono di non agire o peggio di convivere con il nemico. Noi pensiamo che l'organizzazione di concerti, autoproduzioni, fanzine, eccetera, possa abbattere il muro di ignoranza e diffidenza, e la nostra arma sarà l'underground e la sua promozione. Ho perso il punto. Appunto, inizio con il punto di aggregazione del collettivo, inoltre, è stata la forza prorompente. Non vedo un cazzo. Sì, forse è meglio accendere la luce. Direi proprio di sì. Facciamo un po' di luce. Sì, dai. Vai, grazie, grazie Granenko. Comunque, ero rimasto. Il punto di aggregazione del collettivo, inoltre, è stata la forza prorompente nata 50 anni fa che non morirà mai. Il punk, appunto. La nostra volontà di promuovere la scena underground nazionale e internazionale ribadisce il fatto che noi siamo estranei alle mode e da queste facilmente non siamo mai stati attratti. Sottolineerei questa ultima frase. Noi siamo contro le gerarchie culturali con il loro substrato modaiolo e legate alle logiche del profitto. Siamo per una cultura contro, ponendoci ai margini di questa società. Siamo contro il pattume borghese e che guardiamo sprezzanti e ben lungi dall'invidiare. Siamo contro il razzismo e lo ripudiamo in ogni sua forma. Non ci interessa la politica e l'attività politica in senso stretto, ma siamo contro il fascismo e lo combattiamo in ogni sua sfaccettatura, da quelle ideali a quelle pratiche e velate. Che belle parole. Che belle parole. Che belle parole. Cioè, ti giuro, tu hai detto che sei contro la politica, ma se ti candidi io ritorno a votare, ti voto. Votate tutti i miei nipoti. Che belle parole. Veramente un bel comunicato, secondo me, scritto in una maniera adeguata per far capire alla nuova generazione che sta a venire o che c'è di già, però si deve ancora svegliare. Diciamo che questo va un po' contro a quello detto nell'intervista di Bomber 80, che dice che comunque i giovani non... cioè, si vede... Certo, effettivamente è un collettivo formato da 5... Morti di sonno, principalmente. 5 ragazzi, però qualcosa si sta muovendo e io la vedo come una cosa veramente positivissima. Molto positiva. Esatto. Comunque, bellissime parole, ragazzi. Cioè, chi ha scritto questo comunicato deve avere proprio una grandissima testa. Sì, in effetti è vero, è verissimo. Bene, ora che abbiamo risolto anche il problema tecnico... Votate il nipotino. Votate il nipotino. Votiamo subito il pezzo di Bobo 80. PDN, partito del nipote. Chiedo scusa ai Bobo 80 se c'è stato il problema tecnico, veramente scusate, per favore, quando mi ribeccate non mi dovete ammazzare. Se volete vi do una mano anch'io, c'è problema. Ma va a cagare. Allora, questa qua, Bobo 80, molo tutto, di nuovo, 1-3, Boots, 1-2. Radio Wombat. C'è più là, oltre i palazzi di questa città, oltre il lavoro che non trovi mai, oltre le notti nere come i guai. La vita a morte non ti lascia più, la lasci fare ma non è quel più. Un altro giorno sta per terminare, ma tu sei ancora in coda e tangenziale. Lo voglio tutta la rovina, la lascia mai questa follia. Sopravvivere non fa più per me, mollo tutto tranne te. Non ho mai chiesto molto in verità, se non un briciolo di dignità. Ho preso solamente calci in culo da chi mi prometteva un bel futuro. Non si può vivere solo di passioni, anche se scrivi belle canzoni. Non sono mai neanche stato bravo a dire sempre se tirare il capo. Io voglio tutta la rovina, la lascio mai questa follia. Pezzo stupendo. Sì, sì. Stupendo. Veramente spacca il culo oggi. Io non so, cioè, non ho nemmeno parole per descrivere questo pezzo. E dico soltanto grandi ragazzi. Solamente questo. Niente, adesso arriviamo all'ultimo gruppo. Sì. È un trio, viene dalla Laida, provincia romana. No, non esageriamo, eh. Sì. Composto nel 2013 e due membri sono degli Automatica Aggregazione. Puccio e David e un altro dei Foul, giusto? Mi sembra, sì. Se non erro. E abbiamo già parlato di loro, ieri abbiamo fatto un po' l'excursus delle varie puntate insieme a Puccio e abbiamo notato che abbiamo messo questo gruppo, penso, 3 puntate su 4. La prima c'era, la seconda c'era, sì, 3 puntate su 4 e... A noi piace tantissimo. Ieri sotto, quando hanno fatto Pirata, io e Gramenco invisibile sotto al palco. Sì, sì, cioè sembrava i Cox Spad, secondo sì, me. Sì, sì, sì, sì, sì. Eravamo infocati tipo quando i cattolici vedono il Papa passare sulla Papa Mobile. Niente, e oggi però... Vi spiazziamo leggermente, perché vi abbiamo rotto i timpani per, penso, 5 ore in totale di trasmissione. Oggi vi faremo sentire un pezzo acustico. No. E il pezzo acustico è presente all'interno di Sangue tra i denti, e album che abbiamo parlato, sta parlato, dove all'interno di quest'album c'è proprio questo bel pezzo acustico. L'album scorre come una lama nel burro e nel mezzo c'è questa Cuore di pietra, stupenda. Esatto, ma vogliamo dire che in questo disco è stata fatta anche una collaborazione, se non erro, giusto? Molte collaborazioni, Però non mi ricordo, ti devo dire la verità. Grande, cioè mi hai fatto l'unica domanda in 5 puntate che mi hai spiazzato su qualcosa. Sì, ci sono delle collaborazioni, ma non ricordo quali, ecco. Dovrei andare a prendere il CD che... C'ha che in macchina, però... No, quali in macchina? Io non è un pesaculo, quindi... È in autobus. Hai perso sull'autobus, complimenti. Sì, sì, sì, sì, la mia macchina è l'autobus. Puccio, appena tu ritorni sai chi pestare, No, no, è troppo buono. Troppo buono, troppo buono. Dai, allora, il prossimo pezzo è dai Barbera e Champagne, Cuore di Pietra. Questo qua è One Tree Boots. One Two. Però vorremmo ringraziarvi tutti di aver ascoltato questa puntata, visto che è l'ultimo pezzo che metteremo. Sì, e... abbiamo sforato come sempre. Oggi sì, solo di 11 minuti. Sì, esatto. E vi ringraziamo ancora che ci ascoltate ogni volta. Grazie davvero. Io ringrazio mio padre, come sempre, che mi sta ascoltando a casa, felicissimo. E... soprattutto un grazie ai due nuovi ospiti. Ai miei due nipotini, felicissimo di passare quest'oretta con voi e di aver potuto ascoltare le vostre belle parole. Grazie al mio nipotino non preferito. E niente, che dire. E ragazzi, sopportiamo questo collettivo. Andiamo ai concerti. Ma soprattutto supportiamo anche il loro gruppo. Supportiamo e sopportiamo. Esatto. Supportiamo il collettivo e sopportiamo i Plankton. Esatto. Che presenteranno il loro nuovo album alla prossima data del collettivo. Chiamiamo album. EP. Diciamo EP. La cosa. Cioè, in poche parole, nipotino non preferito. Cioè, tu te la stai cantando e te la stai suonando da solo. Cioè, hai fatto un collettivo per far suonare il tuo gruppo? No. Ci siamo. È anche questa la scena. Cioè, giustamente, se non ci riesco, mi faccio un collettivo, certo. Mi suono solo io. Grandissimi. Va bene, dai, andiamo con Cuore di Pietro. Grazie ancora. Alla prossima tutti. Settimana, ragazzi. Prossima settimana, buona serata e buonanotte. Ciao a you. Bello. Dai, dai, ragazzi. Questo è il destino per chi come me il branco ha rifiutato. I piedi fanno male, ma te continui a andare. Respiri, sogni e intanto le tue tasche sono vuote. Ma i ricordi e i sentimenti sono le radici che ti fanno stare in piedi. Sguardo basso verso il mondo che non capisci, vorrebbero mangiarti il cuore, ma tu resisti. Guarda nei miei occhi, ascolta ste parole, nessuno può capire quello che sei te. Stringi i denti e i pugni, niente potrà schiaffire il cuore di pietra che batte dentro te. Sei te.